Arlecchino e Colombina. Soldi, soldi! Sbraitava il farmacista dando ad Arlecchino degli scappellotti sulle orecchie. Dopo tutte le gentilezze che ti ho fatto, ti ho concesso di lavorare per me, ti ho sfamato, ti ho persino dato la stoffa per questo ridicolo vestito. E tu ora osi chiedermi del denaro. Giovannottello ingrato, vattene subito! Fu così che il povero Arlecchino si ritrovò seduto sui gradini della farmacia, senza lavoro e senza casa. Ma Arlecchino non si abbatteva per così poco. «Son contento, un padrone migliore lo troverò di sicuro. Dopotutto cosa mi dava? Un pasto al giorno e un mucchio di stracci per farmi un vestito. Ma!» Si guardò il vestitino fatto di pezzi colorati e sorrise. «Un giorno ne avrò uno molto più bello di questo!» Si aprì un portone dall'altra parte della strada e un povero servitore fu catapultato fuori. «E non tornare mai più!» ruggì un vecchio minacciandolo col pugno. Era il meschino Pantalone. Una ragazza si fece sulla soglia. «Papà, questo è il 100° garzone che licenzi quest'anno, come farai a trovarne un altro?» «Non mi preoccupo davvero, e tu vai a preparare il pranzo, Colombina!» mormorò il vecchio fra i denti. Quando Arlecchino vide il bel volto di Colombina incorniciato da lunghi riccioli d'oro, fece una capriola di gioia. «Ah, ecco quale sarà il mio prossimo lavoro! Lavorerò per il vecchio Pantalone!» Sarà anche il più meschino e il più miserabile uomo della città, ma possiede la più graziosa delle figlie. Così Arlecchino andò a lavorare per Pantalone. E puliva, cucinava, faceva le commissioni per tutto il santo giorno mentre Pantalone brontolava. «Non capisco, i servitori sono così pigri al giorno d'oggi. Guardate quel vestito, avete mai visto qualcosa di più ridicolo?» «Uffa, che sole, non va bene per la mia salute. Io sono un uomo malato. La luce è troppo forte, tira le tende, l'arrosto è troppo caldo. La tua faccia è troppo allegra, smettila di sorridere. Non lo vedi che sono malato?» Ma i gradi rimproveri e le botte, Arlecchino era sempre allegro, specialmente quando Colombina gli sorrideva. In poco tempo si innamorò di lei, anche se lei non lo degnava di uno sguardo. Arlecchino non era il solo ad essere innamorato di Colombina. Brighella, un damerino che proveniva dalla parte più elegante della città, la ossequiava ogni giorno con fiori, dolci e poesie. Colombina non lo poteva soffrire e rifiutava tutti i suoi regali. Gli diceva che non avrebbe mai potuto amarlo, ma Brighella continuava ad insistere. Un giorno Arlecchino trovò Colombina seduta sulle scale che piangeva calde lacrime. «Brighella va raccontando a tutti che mi sposerà. Cosa devo fare?» Arlecchino prese fuoco. «Lo scaccerò! Lo sfiderò a duello!» Le lacrime di Colombina sparirono come per incanto e incominciò a ridacchiare. «Oh, Arlecchino, che stupidello sei! Non riusciresti a sfidare un'oca con un'ala sola!» Le sue risate fecero accorrere il Pantalone in cima alle scale. «Un pover'uomo malato deve proprio sopportare per forza tutte queste risate! Probabilmente ti sembra divertente che io soffra giorno e notte! Troppo debole per andare a letto! Troppo debole per... Arlecchino! Cosa ci fai lì seduto? Io non ti pago per ciarlare con mia figlia! Prendi questo! E questo!» Arlecchino se la dette a gambe e corse per la strada finché gli mancò il fiato. Si guardò intorno e si trovò davanti alla bottega di un barbiere. Fuori dalla porta, appesi a un gancio, c'erano il mantello, la borsa e il cappello di un cliente. Il cliente era il famoso dottor Balanzone. Il barbiere dette l'ultimo ritocco con il rasoio e porse lo specchio al dottore. «Splendidissimus!» disse il dottore. «Dammi il mantello ora!» Ma quando il barbiere si diresse l'attaccapanni vicino alla porta, il mantello, la borsa e il cappello del dottore erano spariti. «Ladri! Chiamate la polizia! Sono stato derubato!» sbraitava il dottore. Quando giunse vicino alla casa di Pantalone, Arlecchino si avvolse nel mantello, si calcò ben bene il cappello sulle orecchie e bussò alla porta. Colombina venne ad aprire. «I miei ossequi, elegantissima e pregiatissima damigella! Io sono il famoso dottor Balanzone, rinomato medico, chirurgo, ottico e veterinario. Ho incontrato il giovane servitore Arlecchino per la strada, il quale era tremendamente in pena per il suo caro padrone, Pantaloni. Pantalone, signore? Ah, sì, sì, questo è il nome. Quindi sono venuto per visitare questo signore.» Colombina spalancò tanto d'occhi. Prego, signore, entrate. Entrate, mio padre è a letto. Arlecchino, con le ginocchia tremanti sotto il travestimento, salì le scale. Non appena Colombina l'ebbe annunciato, egli saltò sul letto, afferrò il polso di Pantalone e gli spalancò la bocca. Sì, vedo, dite, tossite, ispirate, alzatevi, mettetevi a testa in giù. Oddio mio, credo proprio, sì, non c'è dubbio, questo è il primo caso negli ultimi 50 anni. Di cosa, ansimò Pantalone? Phytasa fidus, mio caro signore, il temibile Phytasa fidus. Pantalone si accasciò sul letto avvilito. Oh, ma è serio? Serio? Mio caro signore, è terribile, terribilissimo, anzi. Meno male che il giovane Arlecchino mi ha inviato da voi. Volete dire che c'è ancora speranza? Vedete, la cura è molto cara. Forse voi non siete in grado di permettervela. Pantalone saltò fuori dal letto, spinse il materasso contro il muro e tirò fuori una calza di lana zeppa di monete. Basterà, dottore. Arlecchino contò le monete. Appena, che fortuna la vostra. Ecco la medicina. E porse a Pantalone la pozione più ripugnante e più puzzolente che si trovasse nella borsa del cerusico. Dovete strofinarvela sulla testa due volte al giorno e certamente vivrete. Arlecchino si alzò per andarsene. Arrivato alla porta si fermò e prese la mano di Colombina. Ah, mia cara damigella, non posso fare a meno di notare un certo scintillio nei vostri occhi. Non siete malata anche voi, per caso? No, signore, fece Colombina con voce flebile. Perdonate, ma mi pareva. Allora, non siete turbata dal fatto che degli sgradevoli giovani vengano a fare gli stupidi alla vostra porta? Colombina rispose. Oh, signore, come siete intelligente. Io sono il dottor Ballanzone, chirurgo veterinario e dentista del re. Non sbaglio mai. Prendete questo bastone e quando qualche giovanotto cercherà di prendervi la mano o di baciarvi o di recitarvi delle poesie, colpitelo con decisione sulla testa con questo. Tempo una settimana sarete guarita. E Arlecchino se ne andò per la strada fischiettando allegramente. Pantalone intanto si era affacciato alla finestra della sua camera da letto con un sorriso che gli arrivava da un orecchio all'altro e cantava: son salvo, che dottore meraviglioso! Con il denaro di Pantalone, Arlecchino si comprò un vestito nuovo di zecca. Era fatto con gli stessi colori del vestito precedente, ma tutto cosparso di polvere dorata, di modo che scintillava al sole. Mentre tornava a casa, si imbatté in Brighella, che si teneva la testa fra le mani. «Buongiorno, signor Brighella, che le è capitato?» «È stata Colombina», si lamentò quello. «Stavo facendole la serenata sotto la finestra e lei mi ha colpito con un bastone. Non tornerei da lei per niente al mondo!» Arlecchino lo guardò allontanarsi. Che giornata stupenda era quello! Un vestito nuovo e Brighella mandato a passeggio. Colombina stava affacciata al balcone, bella come un quadro. «Oggi è proprio un giorno fortunato», pensò Arlecchino. «Le chiederò di sposarmi!» E cominciò a cantare. «Oh, Colombina, son pazzo di te! Oh, Colombina, sei fatta per me!» Colombina afferrò il bastone che il dottor Ballanzone le aveva dato, si affacciò e lo percosse. Vai via, il dottor Ballanzone mi ha dato la cura contro i giovanotti invadenti. Il dottor Ballanzone è meraviglioso, così intelligente, lasciami in pace a sognare del caro, caro dottore. Ad Arlecchino non restò altro che andare a rannicchiarsi nel suo letto in cucina fra pentole e tegami. Sospirava e si strofinava la testa malconcia. Ma alla vista del suo abito nuovo che scintillava sotto i raggi della luna, si consolò. Una settimana dopo, Pantalone brontolava come sempre contro servitori, figlie e contro il tempo. Ma Colombina, rinchiusa in camera sua, piangeva da spezzarsi il cuore. Suo padre l'aveva promessa in sposa a un certo Capitan Spaventa.